concludiamo il programma dell'anno svoltosi in forma abbreviata con questa audio lezione o audiosintesi che dir si voglia su Machiavelli e Guicciardini. Alcuni hanno lamentato la mancanza da parte mia di video lezioni, ma io trovo che le video lezioni, e non solo io, insomma anche alcuni studenti si sono lamentati a quanto pare del fatto che tutte queste video lezioni finiscono per causare addirittura problemi agli occhi, insomma alcuni studenti cominciano ad accusare problemi agli occhi per tutte queste ore trascorse davanti allo schermo, insomma siete un po' giovani per cominciare ad avere problemi agli occhi. Io ho dovuto cominciare a usare gli occhiali proprio in questi ultimi mesi. Quindi la video lezione che senso ha, tanto se anche non vedete la mia faccia, fossi capito come si chiama il coso, insomma fossi un fotomodello, allora vabbè, uno dice vediamo anche la faccia, ma visto che insomma quello che devo, se insegnassi matematica allora vabbè lì ci vorrebbe, bisognerebbe far vedere anche le formule eccetera, ma un testo potete anche seguirlo, anzi beh, se lo leggete sullo schermo vi viene il male agli occhi, il mal di testa lo stesso, dovreste stamparlo, ma comunque sono quei testi talmente celebri che o sulla vostra antologia o su un'altra qualsiasi antologia scolastica o anche insomma potete trovarli facilmente anche sulla carta. In ogni caso, se avete una stampante potete stamparli, anche se non è molto ecologico, ma vabbè. Allora dobbiamo parlare di Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini. Mi raccomando, Machiavelli oggi si scrive con una C sola, anche se lui si firmava con due, però misteri, oggi bisogna scriverlo con una C sola. Nell'Ottocento lo scrivevano ancora con due C, oggi invece vabbè, Machiavelli con una C sola. Bisogna dire opera machiavelliana, perché machiavellico ha un significato, ormai non si usa più, lo si usa raramente, un ragionamento machiavellico, ecco. Ma insomma, machiavellico ha una connotazione un po' negativa, perché significa astuto, molto furbo, ma anche un po' disonesto, un po' falso, insomma, un atteggiamento machiavellico. Oddio, nella vita ogni tanto conviene anche essere machiavellici, ma bisogna essere capaci di fare i machiavellici, altrimenti uno fa solo la figura doppiamente del fesciacchiotto che prova anche a fare il furbo e non ci riesce, quindi è la cosa peggiore di tutte. Dunque, il modo, l'introduzione, allora, Machiavelli e Guicciardini furono, come sapete, i due massimi pensatori politici italiani e con tutta probabilità non solo italiani del primo Cinquecento, della prima metà del XVI secolo, quindi rientrano nello stesso contesto culturale di Ariosto, per intenderci. Il periodo del cosiddetto Rinascimento maturo, approssimativamente, insomma, i primi tre decenni del XVI secolo. Il modo migliore, noi ci soffermiamo solo sulle opere, sui capolavori politici, no, cioè Il Principe di Machiavelli, brevissimo testo, cioè breve trattato che vi consiglio di leggere per intero, un'ottima lezione di pragmatismo, di cinismo e anche di falsità, se vogliamo, quindi dal punto di vista morale può essere un po' discutibile, perché oggi va di moda a parole noi il buonismo tra virgolette, insomma la realtà è completamente diversa. Un'opera, una delle opere più tradotte al mondo, tradotto, ma credo che dopo Dante, anzi senza alcun dubbio dopo Dante, Machiavelli e con dopo Dante insieme a Petrarca, insomma, Machiavelli, il principe di Machiavelli, con tutta probabilità è lo scrittore italiano più famoso e più tradotto al mondo, e ha avuto influenze e risonanze anche sorprendenti, impensabili. Il più grande rapper di tutti i tempi, Tupac Shakur, pubblicò l'ultimo album con lo pseudonimo di Machiavelli. Era, dopo aver letto Machiavelli, si era immedesimato, identificato a tal punto con questo cinismo, questa doppiezza, questo opportunismo, insomma, questa a volte anche ferocia, ecco, che trapelano dal pensiero machiavelliano, che arriva addirittura ad adottare come pseudonimo Machiavelli. Cosa sorprendente, immaginare un rapper, insomma, americano che faceva parte anche di un gang e venne assassinato, no? Il celebre assassino di Tupac Shakur, no? Fino un po' come Cesare Borgia, insomma, se non altro aveva usato, aveva sfidato la sorte, sfidato il destino, insomma, anche se alla fine gli era andata male, ma insomma almeno ci aveva provato. Ad ogni modo, ecco, il modo migliore per anzi, sarebbe interessante ascoltare anche qualche canzone di Tupac, quelle pubblicate con lo pseudonimo di Machiavelli, e andare a spulciare nei testi, che sono difficilissimi da capire perché sono scritti nello slang americano, quindi per anche uno che sa bene l'inglese fa fatica a capire a volte, ma insomma, per quale ragione proprio la scelta di questo pseudonimo, perché quando uno un po' come Jim Morrison, che pubblicò un album intitolato Dionysus e si immedesimava proprio con Dioniso, tanto che anche la sua, il suo look, no, in alcune fotografie, in quella capigliatura, ricalcava proprio la figura di Dioniso, e quando morì sul suo comodino trovarono delle pile di libri sul dionisismo, sulla religione dionisiaca, le vacanti di Euripide, fra l'altro, no? Quindi anche questi grandi artisti del rock o del rap sono a volte sorprendentemente influenzati da questa cultura, che sembra roba da secchioni o roba da topi di biblioteca. Comunque, tornando a cose più tradizionali, io qui ho pubblicato un singolo foglio PDF, perché insomma con questa, sempre e comunque a livello scolastico, ma a maggior ragione con questa didattica a distanza, ci vuole qualcosa di conciso e di rapido. Allora, due brevi passi di Francesco De Sanctis. Sembra così anacronistico studiare oggi la letteratura italiana facendo riferimento a testi del 1870, perché Francesco De Sanctis rimane con tutta probabilità, anzi sicuramente, il massimo storico della letteratura italiana, intendo dire autore della migliore storia della letteratura italiana, anche se ovviamente essendo stata pubblicata nel 1871 non può tener conto delle opere uscite in seguito, e quindi uno non può studiare solo quella e pensare che la letteratura italiana sia finita con Manzoni e Leopardi, eccetera. Ma di fatto anche uno studente di oggi, a mio parere, capisce la letteratura italiana più facilmente, in modo più incisivo, più rapido, più essenziale, leggendo De Sanctis piuttosto che leggendo quei mattoni dei manuali scolastici. Allora, no, dice, parlando di Machiavelli, c'è quel PDF che ho caricato, almeno credo, ma lo caricherò di nuovo, così l'ho imparato due volte, e PF che è denominato De Sanctis trattino Machiavelli trattino Guicciardini. Allora, la patria del Machiavelli è una divinità superiore anche alla moralità e alla legge. Non avete ancora studiato lo Hegel, per vostra fortuna. Beh, fortuna, cioè, ma è un po' pesante. Comunque, questo è un concetto hegeliano che viene riecheggiato da De Sanctis. Secondo Hegel, no, l'ingresso di Dio nel mondo è lo Stato. Ecco, la famosa statolatria hegeliana, la teoria dello Stato etico. Allora, secondo alcuni storici del pensiero, Machiavelli anticiperebbe questa teoria dello Stato etico. La sintesi del pensiero di Machiavelli è proprio questa: la patria del Machiavelli è una divinità superiore anche alla moralità e alla legge. Potremmo anche finire qui, basta, perché il concetto fondamentale è questo. Insomma, per Machiavelli, diciamo, il politico, nel momento in cui agisce, può ignorare le norme della morale comune, della religione e della stessa umanità. Ma non dico che Machiavelli sarebbe arrivato a legittimare forme di razzismo o di genocidio, eccetera. Resta il fatto che un'opera minore di Machiavelli, poco citata, poco nota, anche perché ben poco lusinghiera per il suo autore, una breve opera di Machiavelli si intitola Sul modo di trattare i popoli della Val di Chiana ribellati, ed è praticamente una teorizzazione del genocidio a tutti gli effetti. Insomma, questi poveri popoli della Val di Chiana che si erano ribellati, insomma, che cosa, come si fa? Insomma, lui dice, non si può fare altro che sterminarli tutti, perché per evitare i guai peggiori, cioè bisogna estirpare, diciamo, la rivolta sul nascere per evitare che si estenda. Ecco. Quindi una vera e propria lezione di cinismo e di brutalità. Ma dice Machiavelli, il mantenimento del potere e dell'ordine ad ogni costo è un valore supremo. In nome di quel valore, cioè la stabilità del potere, si può sacrificare qualsiasi altro principio morale, religioso. La religione per Machiavelli, come per Guicciardini del resto, serve soltanto come strumento di potere, instrumentum regni. Ecco, il potere non è subordinato alla religione, ma semmai la usa, ecco, se ne serve come un ulteriore strumento per tenere sotto controllo i popoli. Proprio per questo Machiavelli e Guicciardini, che sono molto diversi per vari aspetti, ma hanno anche alcuni punti in comune, e erano anche amici, c'è un carteggio fra Machiavelli e Guicciardini, dove sono, quando non parlano di politica parlano di puttane, quindi insomma, si danno reciproci consigli sulle cortigiane da frequentare. Ecco, no? Lui fa una specie di escort advisor, ecco, ante litteram, ma insomma erano i due, insomma, individui piuttosto spregiudicati, cinici e gaudenti, anche, no? Sebbene Guicciardini fosse al servizio di Roma, insomma, al servizio dei papi, mentre Machiavelli era al servizio della signoria di Firenze, la signoria Medicea, Machiavelli aderì alla Repubblica Fiorentina, una breve parentesi tra virgolette rivoluzionaria, tanto che quando poi si reinsediarono i Medici a Firenze, Machiavelli fu mandato in esilio, tra virgolette, insomma, in esilio lì vicino, insomma, in una villa all'albergaccio dalle parti di Pacciani, insomma, in quelle campagne rese tristemente celebri dal mostro di Firenze, no, quella zona lì, la villa dell'albergaccio era proprio nei pressi di Mercatale, quindi proprio le terre di Pacciani, insomma, le terre del mostro di Firenze. Proprio in questo isolamento, in questo esilio, tra virgolette, questo, in questa condizione di Ossium, Machiavelli concepì e scrisse Il Principe. 1500, non si sa se 1512, 1513, scrisse anche la Mandragola, che era considerata la più grande commedia italiana di tutti i tempi. A me non sembra francamente entusiasmante, comunque quella la saltiamo, cogliamo l'occasione di questa semplificazione del programma per sfrondare, insomma, cose di cui si può fare a meno. Comunque, tornando a noi, non stavo parlando di Guicciardini, dunque, perché com'era pure il discorso, Machiavelli, Guicciardini, non mi ricordo più, ma dovevo dire una cosa importante. Aspetta, com'era una storia? Ah sì, la Chiesa. Praticamente Machiavelli e Guicciardini, pur essendo così diversi sotto altri punti di vista, concordano però su questo concetto. Cioè, la religione, cioè loro non erano interessati alla religione dal punto di vista spirituale, non è che fossero dei sinceri credenti, nel loro pensiero così cinico, così disincantato, così pragmatico, non c'è spazio per la pietas cristiana o per un'autentica religiosità. Tanto che nella tragedia elisabettiana Machiavelli veniva addirittura identificato con il demonio, cioè veniva visto come una figura diabolica. The Old Mick era The Marvelous Machiavelli, come lo chiama Shakespeare. Nel Riccardo III di Shakespeare c'è, cioè, all'inizio proprio l'evocazione dello spettro di Machiavelli, no? Invocherò l'omicida Machiavelli, o meglio, come che dice, voglio compiere qualcosa di assolutamente crudele e spietato, insomma, voglio far impallidire anche The Marvelous Machiavelli, insomma, il sanguinario Machiavelli. Maurice Joly, un enigmatico pensatore francese o svizzero, non ricordo, pubblicò, no, i cosiddetti Dialogue de Genève, un'opera maledetta in qualche modo, in cui viene immaginato un dialogo fra Machiavelli e Montesquieu all'inferno. Machiavelli e Montesquieu all'inferno dialogano l'uno con l'altro, proprio quell'opera che era quasi scomparsa dalla circolazione, era stata distrutta, quasi tutte le copie erano state intercettate e distrutte, perché era un'opera che veniva criticato aspramente Napoleone III. Una delle pochissime copie sopravvissute di quei dialoghi di Genève capitò nelle mani evidentemente dell'anonimo e misterioso artefice alla fine dell'Ottocento, nei primissimi anni del Novecento, non si sa chi, non si sa dove, forse in Russia, insomma, l'anonimo misterioso autore dei famigerati protocolli dei savi anziani di Sion, opera notoriamente apocrifa, nel senso che i savi anziani di Sion non sono mai esistiti, perché non esistono, non risultano da nessun'altra fonte, ma la base, la fonte di ispirazione fondamentale dei protocolli furono proprio questi Dialogue de Genève, Dialogue entre Machiavelli, Montesquieu e Jean-Fer, cioè i dialoghi immaginari, no, ovviamente, di Machiavelli e Montesquieu all'inferno, scritti da questo Maurice Joly, ecco, un grande, un diabolico, appunto, manifesto di cinismo, di, oggi si direbbe di complottismo, sono una sorta di complotto per dominare il mondo usando questa logica machiavellica, proprio così cinica, spregiudicata, manipolando l'informazione, ad esempio l'uso machiavellico proprio, cioè strumentale dell'informazione per plasmare, no, quella che oggi viene chiamata l'opinione pubblica globale. Di tutto questo Machiavelli non ha colpa diretta, perché vabbè, quelli erano dialoghi immaginari, ovviamente, insomma, era un po' una deformazione del suo pensiero. Ad ogni modo, ecco, ma ecco, Machiavelli e Guicciardini, tornando al problema della religione, concordano, pur non essendo affatto sinceri credenti, concordano comunque su un punto, cioè la corruzione della Chiesa è nociva anche per il potere. Cioè, affinché ci sia una società ordinata è necessario che le istituzioni religiose siano solide e godano della fiducia dei fedeli. Riflessione che si trova già in Tito Livio, peraltro, no? Tito Livio che era molto amato da Machiavelli, Machiavelli scrisse anche i discorsi sopra la prima decade di Tito Livio, opera francamente noiosa, pesante, prolissa, insomma non ha la concisione e l'energia che sono il pregio principale del principe, ma principale del principe, in alcune parole, insomma, diciamo il pregio più rimarchevole del principe. Ad ogni modo, sia Machiavelli che Guicciardini si soffermarono sul testo di Tito Livio, perché Machiavelli scrisse questo commento e Guicciardini rispose con delle osservazioni su Machiavelli, su un commento del commento, una risposta, delle osservazioni critiche, insomma, sul commento di Machiavelli. Ad ogni modo, ecco, questo concetto si trovava già in Tito Livio, cioè è fondamentale, ovviamente Tito Livio faceva riferimento alla religione romana, per ovvi motivi, era in accordo con la politica augustina, no? La politica dell'imperatore Augusto, il quale sottolineava proprio l'importanza dei riti tradizionali e della pietas religiosa tradizionale romana, che era messa in pericolo dall'influsso dei culti orgiastici, no? Di origine orientale, che venivano considerati immorali e anche pericolosi per l'ordine sociale. Quindi la religione veniva considerata importante non tanto da un punto di vista spirituale, no, autenticamente, sinceramente religioso, quanto per un'esigenza di mantenimento dell'ordine sociale. La religione come strumento morale, come strumento di potere, ma anche come strumento di oppressione, perché in fin dei conti qualsiasi forma di ordine sociale comporta una certa dose di repressione, non c'è niente da fare, insomma. Poi ci sono dei momenti in cui si può dare libero sfogo, no? Il momento del carnevale era, no? Oggi non so, c'era lo sballo del sabato sera, almeno qualche anno fa si diceva lo sballo, oggi non so se si usa ancora questa parola così. Ad ogni modo ci sono dei momenti così carnevaleschi proprio di almeno apparente liberazione degli istinti, insomma, no? Momenti così di sfrenatezza, di orghè proprio, no? In cui uno si rompe le scatole dal lunedì al venerdì e poi sabato va a fare, a combinarle di cotte e di crude, ma non c'è una società che possa fare a meno di una certa dose di repressione, no? Per poter mantenere l'ordine. A quel modo che il Dio degli ascetici assorbiva in sé l'individuo e in nome di Dio gli inquisitori bruciavano gli eretici. Notate l'osservazione terribile, cioè in fin dei conti dice De Sanctis, lo stato divinizzato da Machiavelli finisce per essere non meno feroce e non meno assetato di sangue del Dio degli inquisitori, no? il nome del quale gli inquisitori, cioè i giudici della Santa Inquisizione romana, bruciavano gli eretici e le streghe. Per la patria tutto era lecito e le azioni che nella vita privata sono delitti diventavano magnanime nella vita pubblica. Non mi ricordo più chi diceva ora: chi ammazza un uomo è un assassino, chi ne ammazza un libro nazione è un grande capo di Stato, un grande condottiero, un grande generale, un grande patriota, no? Quindi in effetti il nome di questi valori, come la patria, no? La nazione, e via discorrendo, no? Vengono commessi dei grandi stermini. Vabbè, quando si tratta di un genocidio, allora c'è l'aggravante, si direbbe, no? L'aggravante dell'odio razziale, ma tutte le guerre sono grandi, se non sono genocidi, sono democidi, no? Questo neologismo che è stato introdotto proprio da non molti anni, il democidio, cioè l'annientamento di un popolo, mentre il genocidio è l'annientamento di una presunta razza, no? Di un presunto genus. Ragion di Stato e salute pubblica erano le formule volgari nelle quali si esprimeva questo diritto della patria superiore ad ogni diritto. Ecco, la ragion di Stato, a dire il vero, sarà Giovanni Botero, un che non c'entra niente con il pittore omonimo, Giovanni Botero, questo trattatista politico un po' dimenticato oggi, ma ecco, lui proprio teorizzò sistematicamente la ragion di Stato, ecco, termine che poi è entrato nell'uso comune, la ragion di Stato, cioè un motivo politico per cui si possono ignorare le più elementari norme dell'umanità e della solidarietà, insomma, della pietà. E salute pubblica, questo invece termine usato dai giacobini, dai rivoluzionari francesi, erano le formule volgari nelle quali si esprime, volgari qui vuol dire comuni, nelle quali si esprimeva questo diritto della patria superiore ad ogni dritto. Al dritto, qui dritto sta per diritto, non è un ordine di stampa. La divinità era scesa di cielo in terra e si chiamava la patria, ed era non meno terribile. La sua volontà e il suo interesse era suprema lex, era sempre l'individuo assorbito nell'essere collettivo. Altro concetto hegeliano, che però si ritroverà anche nei grandi totalitarismi novecenteschi, secondo alcuni, Machiavelli addirittura anticipa i grandi totalitarismi novecenteschi, è un po' esagerato forse attribuirgli questa responsabilità, sta di fatto che Mussolini scrisse una prefazione al Principe di Machiavelli, ma sarebbe anche interessante leggerla, solo che poi sembra propaganda non fascista, quindi meglio lasciar perdere. Però dice proprio in quella prefazione, dice Mussolini, cioè, ma Machiavelli sembra dirci che la democrazia non è altro che un fantoccio, quello che conta è la volontà del capo, no? Un po' quello che in tedesco viene chiamato Führerprinzip, no? Il principio del capo. E nei momenti decisivi, dice Mussolini in quella prefazione, quello che conta è la volontà del capo il popolo non ha a disposizione altro che un monosillabo, cioè sì, ovviamente, perché il no non è ammesso. Allora, e quando questo essere collettivo era assorbito a sua volta nella volontà di uno solo o di pochi, avevi la servitù. Questa è proprio l'essenza dei grandi totalitarismi novecenteschi, che qui viene intuita da De Sanctis, facendo riferimento a Machiavelli di cui sta parlando, ma anche ad Hegel. Ecco, nel caso di Hegel effettivamente si può parlare di una statolatria, anche se vabbè, Hegel, il pensiero di Hegel per certi aspetti era legato all'assolutismo prussiano, ma Hegel sta anche alla base del marxismo, quindi no, destra e sinistra hegeliana, cioè, insomma, quella di Hegel può essere una lezione di assolutismo, ma anche una lezione di libertà, insomma. Vabbè, il discorso sarebbe lungo. Libertà, ecco qua, e quando questo essere collettivo era servito nella volontà di uno solo, di pochi, avevi la servitù. Libertà era la partecipazione più o meno larga dei cittadini alla cosa pubblica. C'è anche quella canzone Libertà e partecipazione, no? Non so se sia proprio derivata direttamente da questo passo, comunque. Libertà era la partecipazione più o meno larga dei cittadini alla cosa pubblica. E qui c'è un'idea democratica, no? Che in Machiavelli è difficile trovare, perché il principe di Machiavelli, cioè, fondamentalmente è un uomo, un singolo individuo, insomma, no? il suo ideale era Cesare Borgia, proprio per il suo grande cinismo, la sua grande spregiudicatezza, anche se poi andò a finire male, perché Machiavelli dice: non basta il valore, non basta il cinismo, non basta la furbizia, ci vuole anche la fortuna, senza la fortuna, è anche questione di fortuna, insomma, senza la fortuna non c'è verso, insomma. Allora dice: libertà dei cittadini è una cosa pubblica, la patria assorbisce anche la religione, lo Stato non può vivere senza religione. Se Machiavelli si duole della corte romana, non è solo perché ha difeso il suo dominio temporale, cioè politico, è costretto a chiamare gli stranieri, ma ancora perché con i suoi costumi disordinati e licenziosi, cioè immorali, ha diminuito nel popolo l'autorità della religione. Meglio vuole una religione di Stato che sia in mano del principe un mezzo di governo. E qui si potrebbe fare riferimento ai patti lateranensi, no? Cioè all'accordo fra la Chiesa e lo Stato nel periodo fascista, anche se sono anacronistici questi riferimenti, cioè interpretare il pensiero di Machiavelli alla luce di eventi accaduti più di 4 secoli dopo, no? C'è sempre il rischio dell'anacronismo. Ad ogni modo, dice, questo è quello che abbiamo già detto, insomma, la critica della corruzione della Chiesa, la quale dovrebbe invece essere uno strumento per l'ordine e per la stabilità dello Stato. Ma egli vuole una religione di Stato che sia in mano del principe come un mezzo di governo. Ecco, una critica che sia Machiavelli che Guicciardini rivolgevano alla Chiesa era quella di avere Machiavelli, i discorsi di Guicciardini diversi, ma una critica che Machiavelli muove alla Chiesa è anche quella di avere sempre favorito la presenza in Italia di truppe straniere. Machiavelli individua proprio in questo elemento, in questo fattore, uno dei motivi che hanno ritardato la formazione in Italia di un regno unitario. Machiavelli, come ambasciatore della Signoria di Firenze, andò in Francia, in Germania, ebbe modo di vedere con i propri occhi queste grandi strutture statali, nell'epoca in cui prendevano forma i grandi stati nazionali, i grandi regni nazionali. Avrebbe voluto qualcosa di simile anche per l'Italia, ma in quell'epoca era ancora un'utopia molto, molto vaga, perché, come è noto, l'Italia era frazionata in tanti piccoli stati, staterelli, signorie. Insomma, addirittura il regno di Caterina Sforza, quello che venne conquistato e spugnato da Cesare Borgia, era un regno minuscolo, no? Davvero, un regno, no? Praticamente un territorio poco più che praticamente il comune di Imola, ecco, e poco altro come estensione territoriale. E Machiavelli faceva riferimento a ciò che vedeva, e quindi, insomma, ai suoi occhi Cesare Borgia era un modello di condottiero e di uomo di Stato, anche se nella storia europea chiaramente Cesare Borgia è una figura assolutamente marginale, minima, e forse non verrebbe più ricordato nemmeno nei libri di storia d'Italia se non fosse per Machiavelli. Ma ecco, la virtù è da lui intesa nel senso romano e significa forza, energia, che rende gli uomini atti. Questo è un altro punto essenziale. La virtù per Machiavelli non è virtù morale o virtù religiosa, nel senso di virtus proprio, in uno dei sensi latini di virtus, legato a vir e a vis, sarebbe mascolinità, ma anche forza, oggi si potrebbe dire leadership, ecco. Machiavelli intende proprio virtù nel senso di leadership, si direbbe, no? Forza, energia, che rende gli uomini atti a grandi sacrifici e alle grandi imprese. Non è che agli italiani manchi il valore, anzi nei singolari incontri riescono spesso vittoriosi, cioè nei duelli, negli scontri individuali. Manca l'educazione e la disciplina, o come egli dice, i buoni ordini e le buone armi. Armi nel senso di eserciti, i buoni ordini, il concetto di ordini al plurale in Machiavelli è, diciamo, è polisemico, ma si potrebbe intendere istituzioni, ecco, le istituzioni, come si dice oggi, che fanno gagliardi e liberi i popoli, cioè che rendono forti e liberi i popoli. Ma in effetti all'Italia è sempre mancato, anche dopo l'unità d'Italia, sotto certi aspetti anche oggi. Oggi forse si è ridotto questo divario fra nord e sud, la questione meridionale, non dico che sia stata risolta, ma un po' meno, forse un po' meno grave, un po' meno sentita, perlomeno ecco, meno sentita, ma questa mancanza di senso di appartenenza proprio ad una nazione unita è comunque uno dei problemi dell'Italia, ecco. Perché anche in Svizzera, dove addirittura ci sono quattro identità linguistiche e culturali diverse, italiana, francese, tedesca e romancia, perché la Svizzera ha quattro lingue nazionali, anche il romancio come lingua nazionale, eppure insomma, la Confederazione Elvetica, pure avendo quattro lingue ufficiali, pur avendo queste identità culturali diverse, comunque ha anche un elvetismo, come viene chiamato, un senso di appartenenza alla nazione elvetica, no? Questo è proprio un esempio paradossale, un esempio estremo, cioè quattro lingue ufficiali, quattro identità diverse, una specie di piccola Europa all'interno dell'Europa, anche se non fa parte dell'Unione Europea, ma riesce ad avere comunque una identità e una coesione e un senso dello Stato anche, che in Italia invece manca. Allora, dice, non è che agli italiani manchi il valore, alla virtù premio è la gloria. Patria, virtù, gloria sono le tre parole sacre, la triplice base di questo mondo. Come gli individui hanno la loro missione in terra, così anche la nazione. Gli individui senza patria, senza virtù, senza gloria sono atomi perduti, cioè individualità smarrite. E parimenti ci sono nazioni oziose e vuote che non lasciano alcun vestigio, cioè alcuna traccia, testimonianza di sé. Oggi lo scriviamo con l'accento acuto nel mondo. Tra l'impero e la città o il feudo, le due unità politiche del Medioevo, sorge un nuovo ente, la nazione, alla quale il Machiavelli assegna i suoi caratteri distintivi, la razza, la lingua, la storia, i confini. Questo è un po' un anacronismo in cui incorre De Sanctis, perché qui De Sanctis proietta sul pensiero di Machiavelli un concetto di nazione che è tipicamente 7-800, no? Come diceva Manzoni, una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di corno. Adesso in Machiavelli non c'è ancora questa idea di nazione così tipicamente moderna, anzi contemporanea, che nasce fondamentalmente alla fine del Settecento. Tra le repubbliche e i principati spunta già una specie di governo medio misto che riunisca i vantaggi delle une e degli altri e assicura al tempo la libertà e la stabilità. Governo con presentimento dei nostri ordini costituzionali, di cui Machiavelli dà i primi lineamenti del suo progetto per la riforma degli ordini politici in Firenze. È tutto un nuovo mondo politico che appare. Si venga fatto del Machiavelli tratta della formazione dei grandi stati, soprattutto la Francia. L'idea del Machiavelli è un'utopia, non meno che l'idea di Dante. Ed oggi è facile assegnare una ricca giovane, patria, libertà, Italia, buoni uomini, buone armi, erano parole per le moltitudini. Dante faceva riferimento non tanto alla nazione italiana quanto all'impero, cioè lui avrebbe voluto l'Italia finalmente liberata da tutte le divisioni interne, le lotte intestine, le lacerazioni fra Guelfi e Ghibellini, ma sotto il potere imperiale. Quindi ci sono due visioni molto diverse, anche perché Machiavelli aveva una grande ammirazione per Dante, un vero e proprio culto per Dante dal punto di vista letterario, però sul piano politico, se uno confronta la monarchia di Dante con il principe di Machiavelli, vede due visioni diametralmente opposte, una visione ancora fortemente religiosa, teologica, insomma, nella monarchia, cioè questa concordia così assoluta, metafisica, metastorica fra Chiesa e Impero, nel caso di Dante, mentre la visione di Machiavelli è decisamente più pragmatica e più attenta. Ecco, Machiavelli considera la politica ipsa propria principia, no? Secondo le proprie intrinseche leggi. È stato detto che Machiavelli considera la politica secondo le leggi, i criteri, i principi, le norme che le sono proprie, quindi estranee alla morale e alla religione, non condizionate dalla morale e dalla religione, allo stesso modo che Galileo studierà la natura iuxta propria principia, appunto, cioè contrapponendo il sapere scientifico a quello religioso, non contrapponendolo, considerando il sapere scientifico distinto, autonomo da quello religioso, anche se in Galileo non c'è il cinismo ovviamente di Machiavelli, perché Galileo parla di leggi naturali, non di leggi che riguardano l'uomo, la politica e la morale. Si veglia fra l'altro dove il Machiavelli tocca della formazione dei grandi stati, soprattutto della Francia. L'idea del Machiavelli, no aspetta, quello abbiamo già letto, allora lo è. Le classi colte ritiratesi da lungo tempo nella vita privata, tra ossi idillici e letterari, erano cosmopolite, animate dagli interessi generali dell'arte e della scienza, che non hanno patria. Qui, con un altro anacronismo, se vogliamo, De Sanctis riferisce al Rinascimento italiano un concetto come quello di cosmopolitismo che sì, c'era già nella grecità ellenistica, ma qui non quella di Pericle, quella di Alessandro Magno e dei Diadochi, e si ritroverà nella cultura del Settecento, nell'illuminismo. Machiavelli parlava di cosmopolitismo a proposito del Rinascimento italiano è piuttosto anacronistico. Quell'Italia di letterati, corteggiati e cortigiani, ecco, bellissimo gioco di parole, cioè i letterati cortigiani, cioè così disinteressati alla politica, disinteressati alla vita pubblica, legati all'ambiente della corte. Ecco, pensate ad Ariosto, in Ariosto non c'è una vera e propria riflessione politica, se non quando Astolfo va sulla luna, lì c'è quella immagine che abbiamo visto, quella grande consapevolezza della caducità di tutti i regni terreni, anche una consapevolezza del carattere ingannevole, falso, che è tipico della politica, che insomma, sotto certi aspetti è sempre menzogna, la propaganda, no? Politica che comunque si esercita sempre a tutti i livelli, è in alcuni casi di più, in altri meno, in alcuni casi in modo più deleterio, in altri meno, ma è sempre retorica, infingimento, inganno. No? Le classi colte ritiratesi da lungo tempo nella vita privata, tra ossi idillici e letterari, erano cosmopolite, animate dagli interessi, abbiamo già letto, quell'Italia di letterati corteggiati e cortigiani perdeva la sua indipendenza e non aveva quasi aria di accorgersene. Gli stranieri prima la spaventarono con la ferocia degli atti del modo, poi la vinsero con le moline, inchinandola e celebrando la sua sapienza. Questo è vero, paradossalmente il Rinascimento fu un periodo di grande fioritura culturale, ma anche di declino politico e civile. Come abbiamo credo già visto, l'Italia conservò in seguito alla pace di Lodi, questa parte in storia non credo l'abbiate già fatto, perché penso sia il programma dell'anno prossimo. Comunque, in seguito alla pace di Lodi nel 1452-4, beh comunque insomma 1450 qualcosa, ma in seguito alla pace di Lodi l'Italia poté godere di un quarantennio di sostanziale stabilità e pace, ma già ai primi del 500, proprio nel periodo in cui stiamo parlando, il sciacco di Valois. Allora, prima la carata di Carlo di Valois 1494 già mise in evidenza la fragilità di questa rete di stati regionali su cui si reggeva l'equilibrio dell'Italia. Poi nel 1527 annus horribilis, no? Il sacco di Roma, la calata degli Anzichenecchi, quel saccheggio che viene descritto in modo così vivido e anche tremendo, tragico nella storia d'Italia del Guicciardini, il quale peraltro era in parte corresponsabile di quella situazione, perché era stato proprio lui a caldeggiare la Lega di Cognac, insomma, quindi una rete di alleanze politiche che avrebbe dovuto garantire la protezione e la stabilità dello Stato della Chiesa, e invece portò alla rovina. Ecco. E che l'uomo, come dice, ciò che mi si impara è di essere un uomo come base di tutto il resto. Ma questo ho fatto un salto qua. Celebrando la sua sapienza. Ciò a che, oggi si direbbe ciò a cui, guarda Machiavelli è di vedere se è un uomo ciò a che, è di vedere se è un uomo ciò a che mira è rifare le radici della pianta uomo. Vabbè, e qui ci sarà un errore di stampa, un pezzo che è saltato, comunque. Ciò a cui mira Machiavelli è rifare le radici della pianta uomo in declinazione, cioè in declino. Questa espressione è rimasta celebre. Qui sicuramente De Sanctis risente del cosiddetto, non del cosiddetto, risente del positivismo, cioè la visione del secondo Ottocento che riprendeva il materialismo settecentesco, cioè paragonava l'uomo a qualsiasi altra creatura naturale, quindi sottolineava la componente fisica e anche biologica, insomma, dell'uomo, una forma di determinismo, cioè l'uomo veniva paragonato a un animale o a una pianta che si poteva studiare in modo oggettivo, in modo scientifico, e il cui sviluppo e i cui comportamenti erano condizionati da leggi naturali. Allora, ciò che mi si impara è di essere un uomo, come base di tutto il resto. Ma qua ho saltato io un pezzo leggendo. Aspetta. In questa sua logica, sento che anch'io sto leggendo qua sullo schermo, perché io non ho proprio una stampante. In effetti qua ti si stanca, cioè leggere così a video viene un gran mal di testa, sì. Comunque la pianta l'uomo in declinazione, cioè in declino sarebbe. In questa sua logica la virtù è il carattere latente, il vizio è l'incoerenza, la paura, l'oscillazione. In effetti la visione di Machiavelli è molto, molto mascolina, oggi si potrebbe quasi dire macista, insomma, o sessista, se vogliamo, perché Machiavelli arriva a dire la fortuna è donna e l'uomo, insomma, di potere deve prenderla per i capelli, deve batterla e urtarla, dice, insomma, l'uomo di potere deve essere impetuoso, non rispettivo. Cioè, insomma, però il povero l'uomo di potere dovrebbe dominare lo Stato e dominare anche le folle, il popolo, così come un seduttore vigoroso, risoluto e virile possiede e domina la donna. Visione tipicamente maschilista. Ma se uno oggi osasse scrivere una cosa del genere, tutti gli darebbero del fascista come minimo. Eppure insomma oggi le cose sono cambiate perché ci sono tante donne di potere, veramente anche nella storia, insomma, da Matilde di Canossa alla regina Elisabetta in Inghilterra, insomma, poi anche nella storia della sua epoca, Caterina Sforza non era mica una donnina così debole e mansueta e sottomessa, anzi si oppose, cercò di opporsi militarmente a Cesare Borgia, e quando vide che non c'era nulla da fare accettò di essere presa tra virgolette prigioniera da Cesare Borgia. In realtà i due trascorsero varie notti d'amore, e dopo la prima notte d'amore i testimoni che videro uscire Cesare Borgia e Caterina Sforza notarono che dei due la dominatrice sembrava Caterina Sforza, cioè Cesare Borgia che era lì ad occhi bassi quasi intimorito, insomma, e Caterina Sforza invece era piena di baldanza e di dignità anche, no? Sebbene fosse di fatto prigioniera, perché Cesare Borgia sarebbe stata una pessima mossa farla assassinare, ma oltre che crudele, ma di fatto Cesare Borgia in quel momento aveva potere di vita e di morte su di lei. Eppure dopo questa notte che passarono insieme, gli dicono le cronache, sembrava quasi che i due si mostrarono, insomma, no? Apparvero, riapparvero dopo questa notte che si presume molto intensa e focosa, perché Caterina Sforza è notoriamente una grande amatrice, come Lucrezia Borgia del resto, queste donne del Rinascimento che poi erano tutt'altro che sottomesse, insomma, no? Anzi Lucrezia Borgia altro che, insomma, era una che avvelenava anche gli ex amanti per evitare che parlassero, insomma, senza tanti problemi. Allora, sembrava quasi che dei due la dominatrice fosse Caterina Sforza. Quindi tutto sommato questa visione, che oggi si definirebbe fallocentrica, non era proprio del tutto giustificata nemmeno dalla realtà politica a cui faceva riferimento Machiavelli, quindi si trattava un po' di un pregiudizio, insomma. Comunque, ciò che gli si impara è di essere un uomo come base di tutto il resto. Mi si impara che la storia, come la natura, non è regolata dal caso, ma da forze intelligenti e calcolabili, fondate sulla concordanza dello scopo e dei mezzi, e che l'uomo come essere, ecco, vedete, forze intelligenti e calcolabili. È ovvio che la politica non può essere governata da leggi matematiche. L'economia sì, ma entro certi limiti, perché magari ci fosse una formula matematica infallibile che ti dice investi 1000 euro nelle azioni, che ne so io, di Amazon, e sei sicuro che non ci rimetterai, anzi che guadagnerai tot. Allora poi sarebbe, insomma, qualsiasi poveraccio potrebbe arricchirsi in fretta. Quindi le leggi, in realtà Machiavelli cercava di formulare anche per la politica, no? la legge la quale mai o raro falla, delle leggi generali che non fanno cilecca, insomma, non vengono smentite, ecco, mai o raramente, ecco. In realtà è un'illusione questa di poter stabilire leggi precise anche per la politica, per la gestione del potere dello Stato, come esistono per la scienza, no? La legge, la gravitazione, uno sa che se butta una cosa per te, se lascia cadere una cosa, quella che casca per terra è difficile che prenda il volo, no? O il principio di Archimede, vabbè, quello nel mio caso non ha funzionato perché non ho mai imparato a nuotare, ma insomma anzi, anche stare a galla non è che fosse così semplice, però insomma le leggi fisiche, quelle sono sempre, anche lì si potrebbe discutere, perché c'è anche il principio di indeterminazione, c'è anche la meccanica quantistica, ma insomma nella fisica classica, diciamo, ci sono queste norme, queste leggi che sono sempre verificate. Nel caso degli esseri umani, queste leggi infallibili di cui andavano alla ricerca questi pensatori non ci sono, perché al massimo esistono delle tendenze così generali, ma non era la stessa cosa, non sono paragonabili alla precisione delle leggi fisiche, ecco. E che l'uomo, come essere collettivo, individuo, non è degno di questo nome se non sia anch'esso una forza intelligente, coerenza di scopi e di mezzi. Da questa base esce l'età virile del mondo, concetto vagamente vicchiano, ma voi non avete ancora studiato Giovanni Battista Vico, l'età dell'uomo, insomma, vabbè, comunque. L'età virile del mondo sottratta possibilmente sarebbe la piena maturità, ecco, della civiltà, sottratta possibilmente all'influsso dell'immaginazione e delle passioni, con uno scopo chiaro e serio e con mezzi precisi. Cioè, ecco, non a caso si parla del rinascimento maturo. È stato detto che il classicismo, tutte le forme di classicismo, sono espressione di un'epoca giunta al colmo della maturità. Anche Virgilio, espressione del classicismo dell'età augustea, era espressione di una civiltà che aveva raggiunto il massimo grado di maturità, effettivamente. Questo lo diceva T.S. Eliot, il grande poeta inglese, Thomas Stearns Eliot, parlando proprio del classicismo, insomma, il concetto di classicità, ecco, che cos'è un classico, visto che fate il liceo classico. Allora, sono state date varie definizioni, ma insomma un classico è un autore che esprime in modo esemplare i valori di una stagione culturale, di una civiltà, ecco, che è giunta al massimo grado di maturità, ecco, che è giunta all'età virile, all'età adulta. Ma un frutto maturo, insomma, se viene fatto maturare troppo, poi marcisce, no? Ed è un po' quello che succede, cioè, in genere alla classicità segue un periodo di decadenza, no? Dopo il rinascimento maturo subentra il manierismo, la cui sensibilità è molto più malata, morbosa, inquieta, anche angosciata, no? Abbiamo letto Tasso, abbiamo visto, diciamo, qualche passaggio. E dopo il manierismo, ai primi del Seicento, arriva il Barocco, che è una ulteriore accentuazione di questi tratti manieristici. Quindi, beh, insomma, lo vedremo meglio in seguito. Allora, e lo stesso si potrebbe dire dell'Ottocento, no? Nell'Ottocento, prima il classicismo, poi il romanticismo, poi il cosiddetto decadentismo, insomma, si passa effettivamente da un'epoca di maturità, di equilibrio, di serenità, di così apollinea, olimpica, no? A un'epoca invece, no? Prima il romanticismo, poi il cosiddetto decadentismo, molto più irrequieta, nevrotica, cupa, morbosa, anche, no? Ma è sempre difficile, no? Dare così, trovare delle tendenze generali che siano sempre verificate, ecco. Innanzi a quest'occhio perspicace, tutto l'antico edificio crolla, e del Medioevo non rimane nulla. Qui sta parlando di Guicciardini, invece. Il regno celeste rovina e si trae appresso nella caduta papa e imperatore. Lo spirito adulto e per virtù propria, emancipato, cioè liberato, si ribella contro il passato dal quale è uscito, e che lo ha cresciuto ed educato. Caccia via da sé tutte le credenze e i principi, i fattori di quella civiltà della quale egli è la corona e l'orgoglio, e si chiude nella terra o nella vita reale, nel mondo naturale così com'è e non com'è immaginato, e pone la sua gloria nell'interpretarlo, nel comprenderlo e nel valersene ai suoi fini. In questo senso, per questa visione così pragmatica, senza illusioni metafisiche, Michelino è vicino al Machiavelli. Il nostro uomo savio e perfetto non ha fede che nel suo giudizio proprio, nel suo speculare, nell'evidenza del fatto, che scopre ogni fallacia di apparenza. Quanti dicono bene che non sanno fare, quanti sulle panche e sulle piazze paiono uomini eccellenti che adoperati riescono ombre. Ecco, Guicciardini sosteneva che non fosse possibile trovare delle leggi universali, generali, ma che si dovesse sempre guardare al particolare. Il particolare, termine chiave di Guicciardini, non indica qualcosa di egoistico. Il particolare non è un interesse egoistico, come molti hanno pensato. Alcuni hanno detto che Guicciardini così aveva una visione egoistica, individualistica, il particolare. In realtà il particolare non è l'interesse egoistico, bensì la situazione ben precisa in cui una persona, e in particolare un uomo politico, si trovano ad operare. Particolare significa circostanza precisa e specifica, contesto, ecco, ben delimitato. Quindi non è una visione egoistica, più che altro una considerazione realistica delle circostanze, dei limiti entro i quali una persona può operare. A volte le due cose finiscono per confondersi, perché se uno dice vabbè, ho dovuto agire così perché le circostanze erano quelle, oppure gli ordini erano quelli, ho dovuto ubbidire agli ordini, mi sono dovuto adeguare alla situazione perché facevano tutti così, no? Quando uno dice ma concorsi truccati all'università, e beh, va così, fanno tutti così, e quindi cosa ci vuoi fare? Questo per parlare di un ambiente che così un po' ho conosciuto. Quindi questo discorso del particolare, sì, d'accordo, non è un interesse egoistico, ma insomma a volte cioè, diciamo che è un concetto ambiguo, ecco. È molto italiano, ecco, questo discorso del particolare, le circostanze, sono stato indotto dalle circostanze. A dire il vero si trova anche in Sallustio, no? Sallustio. Non l'avete ancora letto, ma insomma i primi delle opere di Sallustio contengono questa visione del... Sallustio dice: io per mia natura non sarei stato disonesto, corrotto, io avrei voluto così seguire la virtù dei grandi, dei maiores, ma le circostanze, quando mi affacciai alla vita politica con questa intenzione di fare politica, vidi che insomma l'andazzo era quello che era, l'unico modo per cercare di fare un po' di carriera era adeguarsi alla disonestà, all'opportunismo, eccetera, e allora fui anch'io corrotto da questa situazione. Certo che è molto comoda, no? Metterla in questi termini, fanno tutti così e allora bisogna adeguarsi. Vabbè. Egli crede che i fatti umani siano determinati dalle inclinazioni e passioni e opinioni degli uomini, che ci sia perciò un'arte della vita pubblica e privata fondata sullo studio della cognizione del cuore umano, scienza fatto sperimentale, vedete, scienza sperimentale, anche qua lo studio della politica e dell'uomo come fatti che possano essere scientificamente osservati. E qual maestro in quest'arte, nessuno più addentro di lui nei motivi più occulti e con più cura dissimulati, cioè più nascosti e camuffati con più attenzione delle nostre azioni, né più sicuro in determinare gli effetti più lontani o quella lenta successione di cause poco sensibili, cioè poco percettibili e poco osservate, le quali spiegano quei moti delle cose che al volgo paiono rovine subitanee, ecco, cioè improvvise, subitanee. Cosa dice qui De Sanctis? Guicciardini mostra quel processo così graduale, passo dopo passo, al termine del quale si verificano certi eventi storici che sembrano improvvisi, invece sono stati preparati lungamente da tutta una successione di eventi precedenti, di circostanze preesistenti. Ora, questo è vero, perché se ci pensate, no, ora uno dice l'antisemitismo nazifascista, non è che sia spuntato così da un giorno all'altro, perché gli ebrei erano già stati perseguitati per 2000 anni, esisteva tutta una storia dell'antisemitismo di cui Leon Poliakov ha ripercorso le tappe, quella mastodontica e magistrale opera che era la sua Histoire de l'antisemitismo, la storia dell'antisemitismo di Leon Poliakov, ma questo è solo un esempio, forse l'esempio più lampante, no? Cioè, non è che un evento storico, un evento così epocale, una grande catastrofe, si verifichi così da un giorno all'altro perché uno un bel giorno, un brutto giorno ha un'idea e ci facciamo questa cosa. In realtà c'è dietro una storia secolare, anzi a volte millenaria, no? Un processo storico che ha degli antecedenti remotissimi, delle motivazioni così che sembrano oscure, no? Un grande storico ha scritto: Auschwitz sembra inspiegabile, sembra, no, il paradosso dei paradossi, o sembra l'assurdo più radicale. In realtà, se uno osserva la storia dell'umanità, la storia dell'umanità conduce infallibilmente, inevitabilmente ad Auschwitz, cioè quello che sembra, perché per molti aspetti è il male assoluto, in realtà era stato preparato da tanti eventi addirittura per millenni, no? Cioè una millenaria storia di oppressioni, stermini, guerre. No? Noi ricordiamo quelle che sono più vicine a noi nel tempo, e che sono rimaste impresse in modo più vivido nel nostro immaginario, nell'immaginario dell'età contemporanea, no? Quindi diciamo, ci sono tante cause remotissime, anche apparentemente insondabili, che comunque indirettamente incidono anche sulla storia presente. Fra tanta varietà di accidenti e di opinioni, accidenti qui vuol dire in senso filosofico, cioè sarebbe eventi imprevedibili, e di opinioni e di passioni, nessuna cosa lo sorprende, lo sgomenta, lo turba, perché considera ogni cosa etiam minima e di tutto sa trovare il bandolo, cioè considera tutti gli avvenimenti etiam minima, cioè anche le cose minime, anche i dettagli che sembrano trascurabili, e di tutto sa trovare il bandolo, e nei più diversi casi della vita prevede e provvede, dai più alti negozi dello Stato alle più umili faccende della famiglia. Il suo sguardo nei casi più improvvisi, freddo e tranquillo, è quello di un Dio, alto e sereno sulle tempeste, ma di un Dio leggermente ironico, inclinato a pigliarsi spasso degli uomini e voltarli a modo suo. Ecco. Dice, lo sguardo del Guicciardini è come lo sguardo di una divinità che vede tutto dall'alto, ma è anche uno sguardo ironico, insomma, no? Come se Dio fosse là in cielo, guardasse gli eventi anche tragici degli uomini e si divertisse a guardarli, no? Questa è un'immagine terrificante. Ad ogni modo, Guicciardini scrisse anche La storia d'Italia, che è un'opera enorme, un'opera colossale, insomma sono 9 o 10 volumi di 600-700 pagine ciascuno, scritte anche in piccolo, insomma. La sua opera di, noi non ci soffermiamo sulla sua opera di storico, anche perché lo stile della storia d'Italia del Guicciardini è in assoluto uno dei più intricati e dei più complessi e dei più contorti che ci siano, insomma, una cosa. Se per caso un giorno qualcuno avrà la malaugurata idea di laurearsi in lettere, beh, sappiate che la storia d'Italia del Guicciardini, proprio per la sua grande vastità, proprio per la sua grande estensione E anche perché tutto sommato non è stata proprio studiatissima, insomma, è stata studiata ma non studiatissima come altre opere. La storia d'Italia di Mussolini offrirà sempre argomenti per possibili tesi di laurea, perché è veramente una miniera di notizie, anche se pressoché illeggibile, perché scritta in una prosa latineggiante, con una prosa ipotattica, cioè piena di subordinate, quant'altre mai, ecco. Dunque, mi sono soffermato a lungo, perché praticamente ho parlato più di Sanctis che di Machiavelli e Mussolini, ma a partire da quelle mirabili pagine di Francesco De Sanctis ho introdotto anche alcuni dei punti essenziali, degli aspetti essenziali dell'opera dei due autori, e qui ho caricato, perché è proprio emblematico, un confronto fra la concezione della fortuna, ecco, che avevano Machiavelli e Guicciardini. Allora, praticamente, questa è una delle pagine più celebri. Allora, dice Machiavelli, dov'è? Allora, e non è ancora del principe, ovviamente, no? A dire il vero, il titolo è in latino, De Principatibus, il titolo lo diede in latino, ma vabbè, se l'opera è scritta in italiano viene normalmente citata con il titolo Il Principe. E non mi è incognito come molti hanno avuto e hanno opinione che le cose del mondo siano in modo governate dalla fortuna da Dio, che gli uomini con la prudenza loro, cioè con, qui per prudenza si intende saggezza, discernimento, si potrebbe rendere in greco con phronesis, non possino, si direbbe oggi, possano correggerle, anzi, possino sembra greco, te possino invece era italiano, anzi toscano, dell'epoca, correggerle, anzi non vi abbiano, anche questo, se oggi lo scrivesse abbiano, direbbe, no, che per parlare in romanesco, invece questo, vabbè, era l'italiano dell'epoca, rimedio alcuno, e per questo potrebbero, se uno oggi parlasse così, gli darebbero l'analfabeto, pensate com'era la lingua italiana, no? Anche Dante usa andi, no? Innanzi che più andi, anzi che tu vada, no? Che tu andi, sembra fantossi, no? Vabbè, la lingua italiana, anche queste bizzarrie nella sua evoluzione storica, insomma. E per questo potrebbero indicare che non fossi da insudare molto nelle cose, ma lasciarsi governare dalla sorte. Ecco, Machiavelli dice, in questo molto simile a Polibio, grande storico greco, che Machiavelli leggeva in traduzione latina, anche perché era amico di un amico del traduttore latino di Polibio. In età umanistica vennero tradotte in latino molte opere greche. Machiavelli non sapeva il greco, quindi pensate, nemmeno Guicciardini peraltro, non sapeva il greco. Quindi leggevano i classici greci in traduzioni latine, sapeva anche il nome del traduttore, comunque, beh, dice, allora, meglio il culo, e per questo potrebbero giudicare che non, cioè, quello Machiavelli dice, qualcuno potrebbe pensare che gli eventi umani siano governati soltanto dalla fortuna. Fortuna qui intesa come non tanto come destino o come fato, quanto come caso. Quindi non è forse tanto la ananche quanto la psiche. Vabbè, ho avuto un problema di concetti filosofici, ma insomma è il caso o il destino che fa sì che accadano certe cose. E qui non voglio fare discorsi così porta scalogna, ma se è vero che il grande filosofo Emanuele Severino, morto da non molto, sosteneva che tutto è eterno, allora se tutto è eterno, praticamente è come se tutto fosse già accaduto, Insomma, ciò che è già accaduto in realtà è ancora presente perché tutto è eterno. Cioè, è come se, se uno diceva, è come la bobina di un film, no? I fotogrammi si srotolano, beh, questa veramente non è più attuale questa similitudine, perché ormai voi la bobina cinematografica non sapete neanche che accidenti sia, perché ormai. Vabbè, comunque, immaginate la bobina di un film, no? Quando c'erano ancora le bobine, allora il proiettore, i vecchi proiettori che voi non avete mai visto, ai miei tempi c'erano ancora. Ora il tempo è come una bobina all'interno della quale, quando la bobina è ferma, è avvolta, tutti i fotogrammi sono compresenti all'interno di quella bobina. La nostra esperienza, la nostra vita è come la proiezione di quella bobina. Noi vediamo uno dopo l'altro dei fotogrammi che in realtà in quella bobina sono già tutti compresenti. Ecco. Quindi, se così fosse, allora non avrebbe più senso parlare di caso, no, perché in fin dei conti sarebbe tutto già scritto, praticamente tutto ciò che deve ancora accadere in realtà c'è già ed è soltanto là che ci aspetta, no? E analogamente, non so, i morti in realtà non sono morti, tutti i momenti che, adesso il discorso è un po' triste, ma sono tutti i momenti che, beh, neanche tanto, un po' consolatorio, tutti i momenti che noi abbiamo trascorso con chi non c'è più, in realtà ci sono ancora, ci sono nella nostra memoria, ma anche dal punto di vista ontologico, nell'assolutezza, nella totalità dell'essere, con quella E maiuscola, quei momenti ci sono ancora. Anche se noi soggettivamente li vediamo alle nostre spalle, come se fossero passati. Se ci pensate, è vero, ha una sua logica questo ragionamento. Ecco, come diceva Einstein, no? Per un fisico, il prima e il poi sono soltanto concetti relativi, perché nell'assoluto dello spazio-tempo tutto è compresente, tutto può essere passato o futuro a seconda dei punti di vista. Se così fosse, avrebbero ragione quelli che parlano di destino e non di caso. Ad ogni modo, Machiavelli non è dello stesso parere, cioè rifiuta questo fatalismo. Lui dice, alcuni pensano che tanto tutto capiti per caso e quindi tutto dipenda dalla fortuna e quindi non abbia nemmeno senso impegnarsi troppo nelle cose. Non di manco perché il nostro libero arbitrio non sia spento, l'unico potere essere vero, ecco, dice, ma adesso devo andare dalla sorte. Questa opinione è assunta, cioè è stata più creduta nei nostri tempi per la variazione grande delle cose che si sono viste e vengono ogni dì, fuori di ogni umana congettura. Questo è un riferimento, almeno credo, alla calata di Carlo di Valois, ma anche al fallimento della Repubblica Fiorentina, cioè quel breve periodo in cui i Medici furono deposti, no, con il tentativo del gonfaloniere Soderini che cercò di creare un governo repubblicano. L'esperienza durò poco. Al ritorno dei Medici, Machiavelli, che aveva aderito a questo esperimento della Repubblica Fiorentina, fu messo da parte, fu spedito là, come vi ho già detto, nella villa dell'Albergaccio. Beh, anche Galileo, dopo aver rischiato la condanna, dopo aver abiurato, fu mandato là, si isolò nella villa di beh, adesso non mi ricordo, comunque in una villa, e proprio in quella villa si dedicò a importanti lavori di ottica e di fisica, insomma, non cessò di pensare e di scrivere. Beh, se uno viene spedito in esilio in una villa, non se la passa mica tanto male, insomma, no? Perché fin dei conti, lui continua a farsi gli affari propri, a scrivere, a studiare, a dilettarsi, insomma. Con. cortigiano, eccetera, eccetera, e quindi beh, tanto male non mi va. Comunque, non divago perché il nostro libero arbitrio non sia spento, io dico poter essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che insieme lei ne lasci governare l'altra metà oppresso a noi. Ecco, qui vedete, Machiavelli dice, vabbè, avendo assistito a tanti rivolgimenti, a tanti rovesci di fortuna negli ultimi anni, anch'io sarei tentato di dar ragione a coloro che dicono che bisogna, che tanto, tanto vale abbandonarsi così alla sorte e non impegnarsi tanto in ciò che si vuole fare. Non di manco, ecco, vedete. Questo non di manco, questo a capo poi, non di manco, vedete l'importanza di andare a capo. Vengono i ragazzini, non solo i ragazzini, tendono a non dare importanza a questo fatto di andare a capo. Invece vedete qui, la capo è anche il nesso logico, non di manco, ciò nonostante. Anche i nessi logici, oggi si usano poco perché sono tutti abituati con i messaggini, dicono, a scrivere in questo modo così frammentario, così immediato, e ora uno non pensa neanche ai passaggi logici. Non di manco, cioè, ciò nonostante, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, cioè, affinché non sia del tutto eliminato il nostro libero arbitrio. Notate che qui Machiavelli usa un concetto teologico, cristiano, dantesco, anzi tipicamente cattolico, il libero arbitrio, cioè la libera scelta fra il bene e il male, cioè affinché, ma Machiavelli non lo intende in senso morale, religioso, ma in senso laico, terreno, libertà di scelta e di azione. Io dico poter essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che insieme lei ne lasci governare l'altra metà oppresso a noi. Cioè, Machiavelli dice metà e metà, insomma, per la metà dipende tutto dalla sorte, per l'altra metà dalla nostra volontà. E assomiglio quella a uno di questi fiumi, e qui vedete anche la grande potenza visionaria di Machiavelli che ricorre a queste immagini così incisive, così intense, e assomiglio, evidenti, ecco, e assomiglio quella a una di queste, la visibilità, come la chiamava Italo Calvino, nelle lezioni americane. Lo scrittore deve avere fra le sue doti anche, tra le proprie doti anche, quella della visibilità, cioè non parlare solo di concetti astratti, ma così mostrarli come attraverso delle immagini simboliche, ecco. E assomiglio, cioè paragono quella a uno di questi fiumi rovinosi che quando si adirano allagano i piani, ruinano gli alberi e gli edifici, lievano da questa parte terreno, pongono da quell'altra. Mi sembra quasi di leggere un appunto di Leonardo. Noi purtroppo non abbiamo trattato Leonardo scrittore. Sarebbe stato interessante, perché di solito poi non si fa neanche come scrittore Leonardo. Leonardo fu anche uno straordinario scrittore, anche se la sua opera rimase praticamente tutta inedita. In vita Leonardo non stampò niente, non diede le stampe nulla. Il Trattato della pittura fu la sua prima opera ad essere data alle stampe, ma anche quella fu data alle stampe postumamente. Bisogna aspettare l'Ottocento, bisogna aspettare il XIX secolo perché gli appunti di Leonardo cominciano ad essere pubblicati, no? Pensate. E ancora oggi non c'è un'edizione nazionale degli scritti di Leonardo, cosa abbastanza vergognosa. Vabbè, comunque, ecco, sembra quasi di leggere uno di quegli appunti naturalistici straordinari Leonardo, soprattutto le sue descrizioni delle acque, del moto delle acque che egli studiò con grande acume. È assomiglio quella a uno di questi fiumi rovinosi. Cioè, dice Machiavelli, la fortuna è come un fiume che straripa, ma risulta devastante solo qualora non siano stati innalzati degli argini per contenerlo. Cosa vuol dire? Bisogna prepararsi cercare di prepararsi in anticipo a fronteggiare le avversità della sorte, no? Se uno non prende delle... Insomma, adesso faccio un esempio, mi viene in mente un esempio molto terra-terra, ma insomma... Se due non prendono precauzioni anticoncezionali, poi non possono dire accidenti, che sfortuna, una gravidanza indesiderata. Sono stati loro due deficienti che non ci hanno pensato prima. O se uno non si mette la cintura di sicurezza e guida ubriaco come un idiota, 180 all'ora, va a sbattere contro un albero e si fa molto male, vabbè, ci sarà stata anche una componente di sfortuna, ma è stato lui un... Così, un improvvido, ecco, esempi molto terra-terra, ma per far capire il concetto. Benché siano così fatti, non resta però che gli uomini, quando sono tempi quieti, non vi potessino fare provvedimenti con ripari e argini, in modo che crescendo poi o egli andrebbero per uno canale, o l'impeto loro non sarebbe né silenzioso, cioè così catastrofico, sfrenato, ecco, né si dannoso. Similmente interviene della fortuna, la quale dimostra la sua potenza dove non è ordinata virtù a resisterle. Ecco, questa è la frase forse più incisiva, no? Ordinata virtù, virtù in senso machiavelliano, cioè forza, abilità, accortezza. E qui rivolta ai suoi impeti dove la sa che non sono fatti gli argini e i ripari a tenerla. La fortuna chiaramente imperversa e infierisce là dove non c'è la virtù, cioè la preveggenza, la previdenza, che ha cercato di antivederne gli effetti e di prendere delle contromisure adeguate. Beh, uno dice, per esempio, anche la situazione attuale, no? E quando un famoso virologo diceva in televisione, in Italia, Burioni, no? Che fa tanto il fenomeno, però si è andato a cercare, no? Burioni aveva detto, in Italia il contagio è impossibile, state tranquilli. Lui che fa tanto, prende tanto in giro quelli che non hanno fiducia nella scienza, poi dice, no, in Italia il contagio è impossibile, state tranquilli. Le ultime parole famose, no? Quindi, no, questo ragionamento vale anche per la profilassi delle malattie, no? E delle epidemie. E se voi considererete l'Italia, che è la sedia, cioè la sedia di queste variazioni, e quella che ha dato loro il moto, vedrete essere una campagna senza argini e senza alcun riparo, che se la fosse riparata da conveniente virtù, come la Magna, la Spagna o la Francia, o questa piena non avrebbe fatte le variazioni grandi che ha, o la non ci sarebbe venuta. E questo voglio basti aver detto quanto all'opporsi alla fortuna in universali, ecco, cioè da un punto di vista generale, vuol dire in universali, ma questa è un'espressione del linguaggio filosofico, cioè, la disputa sugli universali, non credo che l'abbiate fatto, forse sì, se avete studiato la filosofia scolastica. Sembra strano trovare anche in Machiavelli dei concetti della filosofia scolastica, perché parrebbe un pensatore assolutamente ambiguo da quella tradizione di pensiero così cattolica, così tipicamente proprio cattolica. Eppure il concetto di libero arbitrio, e qui la considerazione in universali, ovviamente Machiavelli rielabora questi pensieri da par suo, insomma, nell'ambito della sua visione così pragmatica. Concludo dunque che variando la fortuna e stando gli uomini nei loro modi ostinati sono felici mentre concordano insieme e come discordano infelici. L'unico bene è questo, che sembra di essere impetuoso che rispettivo, è equivalente la sua visione, che oggi si definirebbe fallocentrica, maschilista, perché la fortuna è donna ed è necessario, volendola tenere sotto, batterla e urtarla. Accidenti, se qualcuno scrivesse oggi una cosa del genere si beccherebbe una denuncia, no? Giustamente dalle associazioni per la tutela della donna, eccetera. Ma alcuni hanno notato che molto probabilmente queste parole sono ironiche e hanno e non alludono alla violenza, bensì all'atto sessuale, cioè se volendo la tenere sotto bisogna batterla e urtarla, vuol dire, cioè, si allude, diciamo, ad una forma di sottomissione della donna, ma non attraverso la violenza, bensì attraverso il possesso carnale, diciamo, ecco. Le femministe direbbero ugualmente che si tratta di una visione sessista, perché insomma, no, anche questa idea del possesso carnale della donna, no, da parte dell'uomo, inteso come predominio dell'uomo, ecco, è una visione comunque maschilista. Ma è anacronistico giudicare oggi un pensatore dei primi del Cinquecento secondo criteri odierni. Peraltro il povero Machiavelli quasi a fare da controcanto a queste affermazioni, in vecchiaia si innamorò perdutamente di un'attrice che faceva anche la cortigiana, come quasi tutte le attrici, e questa lo maltrattò, lo tradì, lo illuse, poi lo deluse, insomma, ci rimase malissimo. E allora scrisse la seconda delle sue commedie, perché di solito si fa leggere la Mandragola, ma è molto più interessante la Crizia, sia per il rapporto con il modello, cioè Terenzio, anche Menandro, ma attraverso Terenzio, anche perché c'è questa singolare figura, questa proiezione autobiografica, cioè un vecchio che si illude di poter essere amato da una donna più giovane, questa finge di accettare la corte di quest'uomo, insomma di essere pronta a concederglisi, e organizza con i propri amici una beffa crudele, cioè lo fa arrivare nella camera da letto, fa finta di essere pronta così a soddisfare i suoi desideri. A quel punto saltano fuori dall'armadio gli amici di costei e riempiono di botte il povero vecchio stupido, insomma. La situazione è quella tipica della commedia greca e della commedia nuova greca, no? e della pagliata latina, non tanto Plauto quanto Terenzio, ma figurati, anzi no, anche Plauto, anzi forse soprattutto Plauto, perché soprattutto in Plauto c'è la figura del marito, del vecchio, insomma, bavoso e stupidotto, che alla fine rimane così scornato e sbeffeggiato e derubato, e chi più ne ha più ne metta. Quindi ci sono, insomma, entrambi gli aspetti nel pensiero dell'opera di Machiavelli. Quindi c'è anche nella Crizia, cioè l'uomo che fa la figura non del maschio dominatore, ma al contrario del povero sfortunato. Ecco, allora dice, Guicciardini, chi considera bene non può negare che nelle cose umane la fortuna ha grandissima potestà, cioè potere, perché si vede che ogni ora ricevono grandissimi moti da accidenti fortuiti, e che non è in potestà, cioè in potere degli uomini, né a prevederli né a schifarli. E benché l'accorgimento sollecitudine degli uomini possa moderare molte cose, non di meno sola non basta, ma gli bisogna anche la buona fortuna. L'unica opera di Guicciardini su cui ci soffermiamo sono i ricordi. Ricordi significa ammonimenti, ipomnimata in greco. Isocrate scrisse un'opera di struttura analoga, cioè degli ammonimenti, dei consigli, insomma, al re di Cipro, com'è che si intitolava pure quell'opera. Al ginnasio si leggevano anche dei brani di quell'operina molto interessante, oggi un po' dimenticata. I consigli a ma che Ippocrate, ma che cavolo, Iocrate è il paese. Vabbè, io mi sto un po' rimbambendo. I consigli al re, consigli a un re, e questo re si chiamava Nicocle, ecco, Nicocle re di Cipro. Beh, un'opera significativa, un po' dimenticata, forse dovrebbe essere studiata più attentamente, perché è un po' la grande antesignana di questi testi di trattatistica politica, in particolare consigli che vengono dati ai sovrani. Anche Plutarco scrisse un'altra opera poco nota, poco studiata, I consigli ai politici di Plutarco, non ricordo il titolo in greco, ma insomma c'è questa trattatistica politica greca, in particolare questa tradizione di consigli ai politici, che a mio parere rappresenta proprio l'anticipazione quasi diretta di questi trattati rinascimentali, ma questo è un aspetto che vabbè, forse un giorno illustrerò in qualche saggio che nessuno leggerà, quindi tanto vale evitare la fatica di scriverlo. Ma comunque, tornando a noi, ecco, anche nel Medioevo c'erano i cosiddetti specula principis, cioè. Ma Machiavelli si contrappone nettamente a questi specula principis, perché gli specula principis davano un'immagine idealizzata del sovrano che doveva essere timorato di Dio, religioso, devoto, animato dalle virtù cristiane, eccetera. Il dirigibile principum di Egidio Romano era una delle opere più significative, anche in Tommaso d'Aquino c'era questa idea del sovrano, del principe cristiano, insomma. Machiavelli invece c'è una visione diametralmente opposta, cioè la religione come instrumentum regni, cioè non deve essere il sovrano a seguire i principi della religione, casomai il sovrano deve prendere in mano la religione come uno strumento, come un'arma o come un giocattolo, e farne un po' quello che vuole per dominare il popolo, insomma per conservare il potere, il che rappresenta comunque il suo fine ultimo. Ad ogni modo, dice, ecco, ricordi significa ammonimenti, ecco, ammonimenti, non significa memorie. Già nella famiglia di Guicciardini c'era una lunga tradizione di ricordi, cioè anche i suoi antenati avevano lasciato dei testi manoscritti con dei consigli, no, ai successori, ai discendenti. L'opera di Guicciardini fu pubblicata a stampa solo postuma e pose e continua a porre dei problemi filologici, perché ne rimangono diverse stesure, si è discusso su quale sia quella più affidabile, più attendibile, insomma quella che rispecchia l'ultima volontà dell'autore. Ad ogni modo lui non pensava di pubblicarli, quindi insomma può far pensare un po' allo Zibaldone di Leopardi, anche quelli appunti che Leopardi in vita pubblicò solo in minima parte, cioè una raccolta di pensieri pubblicata in vita da Leopardi, ma una minima parte, in realtà lo Zibaldone era così un diario che Leopardi teneva un elenco di letture, anche di progetti letterari. Sono quelle opere che hanno uno statuto, una condizione, che sono anche difficili da definire sul piano del genere, ecco. Luigi Cialdini fu anche un grande aforista, che in fin dei conti la sua opera rientra a pieno titolo nel genere dell'aforisma, cioè hanno questo carattere così conciso, essenziale, almeno rispetto alla tradizione letteraria italiana, forse per i canoni di oggi sono anche troppo prolissi. Coloro ancora che attribuendo il tutto alla prudenza e virtù escludono quanto possono la potestà della fortuna, bisogna al manco confessino, cioè ammettano, che importa assai abbattersi o nascere in tempo, che le virtù o qualità per le quali tutti stimi siano in prezzo. Questa è una amara verità. Se uno nasce oggi con una vocazione intellettuale, filosofica, letteraria, artistica, proprio in un'epoca come la nostra, in cui va di moda essere ignoranti, rozzi, cafoni e soprattutto ricchi di famiglia, insomma, nasce un po' nell'epoca sbagliata. Come si può porre l'esempio di Fabio Massimo, al quale deve essere di natura cunctabundo, bellissimo, no? questo latinismo, cunctabundo, no? Quinto Fabio Massimo, cunctator, no? il temporeggiatore, no? Come fu chiamato, no? Dette tanta reputazione perché si riscontrò una specie di guerra nella quale la caldezza era perniziosa, la tardità utile. Nella sua epoca temporeggiare, esitare, no? Poteva essere utile, perché gli capitò in un'epoca in cui questa tattica poteva produrre buoni frutti. In un altro tempo sarebbe potuto essere il contrario, cioè bisogna anche avere la fortuna, dice Guizzardini, di nascere in un'epoca adatta alle proprie attitudini. Ci sono persone che dicono di essere nate nell'epoca sbagliata, nel secolo sbagliato, è quasi un luogo comune, no? Cioè, in che epoca ti sarebbe piaciuto vivere, insomma, in che secolo ti sarebbe piaciuto vivere? Beh, insomma, comunque oggi ci sono delle comodità pratiche a cui nessuno di noi sarebbe disposto a rinunciare, quindi è anche inutile farsi questa domanda così oziosa. Però la fortuna sua consiste in questo, che i tempi suoi avessero bisogno di quella qualità che è in lui, ma chi potesse variare la natura sua secondo la condizione dei tempi, che è difficilissimo, altro latinismo, difficilissimo e forse impossibile, sarebbe tanto manco dominato dalla fortuna. Quindi vedete, ci sono due variabili, no? Si potrebbe dire, proprio un ragionamento quasi matematico, cioè due variabili: da una parte le attitudini dell'individuo, dall'altra parte le condizioni dell'epoca in cui uno si trova a vivere, ed è un caso fortuito che una persona si trovi a vivere in un'epoca in cui le sue qualità sono apprezzate, no? Per una fanciulla, non so, in un'altra epoca poteva essere apprezzata la virtù, poteva essere apprezzata la moralità, non so, i sani principi, il valore della famiglia, queste cose qua, no? Oggi se uno fa questi discorsi gli dicono, logicamente, no, insomma, gli danno del retrogrado, no, del moralista, del, com'è che dicono, mentalità patriarcale, no? Che oggi va di moda o la donna in carriera o la donna così belloccia e così, diciamo, disinvolta, spregiudicata, ecco, no? Appunto, pensate, oggi se uno ha, almeno nella società occidentale, no? Se uno ha ormai non c'è rimasto quasi nessuno, ma quei pochissimi che hanno ancora questa visione così tradizionalista, la famiglia, i figli, la madre, il focolare domestico, quale focolare, che insomma uno c'ha il teleriscaldamento, quindi che fa il focolare domestico, comunque, in senso metaforico, diciamo. appunto, se uno si mette a fare come ti dico, la famiglia, e tutti gli danno addirittura del fascista, com'è che dicono, patriarcale. Quindi, no, effettivamente, insomma, noi riceviamo la qualità dai tempi, come dicevano. Non mi ricordo più chi, ma insomma, non aveva tutti i torti. La sorte degli uomini non solo è diversa tra uomo e uomo, ma iziam, cioè anche, notate che sia Machiavelli che Guicciardini, ogni tanto ci sono delle parole, anche in Dante delle volte, ci sono delle parole latine, non solo latinismi, ma proprio parole ed espressioni latine che vengono buttate lì in mezzo al discorso in italiano. Evidentemente era questa ibridazione fra italiano e latino nel Medioevo era molto comune, soprattutto nelle prediche religiose e anche nelle lezioni universitarie. Un po' sopravvive anche nelle opere della letteratura italiana, direi proprio fino a forse era la metà del Cinquecento, con l'affermarsi del purismo, 1525, le prose della volgar lingua di Pietro Bembo, questa mescolanza, questa ibridazione fra codici diversi tende ad essere condannata, ecco, o latino o italiano, ecco, sì, scindono le due cose, ecco, i due domini, ecco. La sorte degli uomini non solo è diversa tra uomo e uomo, ma essiam in sé medesimo, perché sarà uno fortunato in una cosa e infortunato in un'altra. Beh, è vero, è difficile che uno sia fortunato proprio in tutto, magari quando si dice sfortunato al gioco, fortunato in amore o viceversa, non so. Poi c'è anche chi è sfortunato in tutto, ma vabbè, quelli sono i casi della vita. Sono stato felice io in quei guadagni che si fanno senza capitale, con l'industria solo della persona. Cioè, sono stato felice, cioè, ho avuto buon esito in ciò che dipendeva dalle mie qualità individuali e non dal patrimonio. Negli altri infelice, con difficoltà ho avuto le cose quando le ho cercate, le medesime non le cercando mi sono corse dritto. Beh, anche questa è una massima molto saggia, no? A volte uno trova le cose, o meglio le cose le vengono a cercare proprio quando lui non le cerca. Se adesso queste sembrano banalità, ma una volta si diceva, no, ma se non riesci a trovare la fidanzata, la ragazza, smetti di cercarla, vedrai che sarà lei che ti verrà a cercare. Io dico che se uno sta a aspettare, a meno che non sia proprio o molto ricco o molto bello, è difficile che siano loro che lo vengono a cercare. Vabbè, questa è un po' una banalità. Ma in fin dei conti, vedete, questi sono consigli anche così, non sono astratti campati per aria, ma volevano avere e avevano anche una ricaduta pratica. Ecco, ho accennato al rapporto fra Medioevo e Rinascimento e ecco, ho caricato anche un file che molto in sintesi espone i tratti essenziali di questo problema storiografico che ha un'importanza capitale, perché paradossalmente, almeno a mio parere, non sono tanto interessanti le opere degli scrittori, insomma, sono molto più interessanti le cose che sono state scritte sugli scrittori. Se ci pensate, perché lo so, io ho sempre avuto questa impressione che la critica, di solito si dice, ma allora i critici letterari si fanno un sacco di elucubrazioni mentali dovranno tirare fuori queste interpretazioni contorte. A volte è effettivamente così, ma è appunto quello il bello, perché non è che di per sé le opere letterarie dicono sempre queste cose interessanti, no? O perlomeno l'opera letteraria di per sé, beh, non è proprio come l'opera d'arte che è muta finché il critico d'arte non la interpreta, non la colloca in un contesto storico, non le attribuisce un significato. Uno che non abbia mai studiato storia dell'arte, che non sappia niente di storia dell'arte, entra in un museo e se non c'è una guida, le guide di solito rompono solo l'anima, ma se non c'è almeno un qualche pannello lì, una qualche didascalia che gli spieghi che cosa dicono le opere, non cosa dicono, cosa, chi le ha fatte, cosa rappresentano, insomma non ci capisce quasi niente. Al massimo può dire quelle cretinate che si dicono, no? Di solito, no? Alle mostre, nei musei, le stupidaggini, ma guarda, sembra che parli, ma guarda, sembra vero, ma guarda che bellino il cagnolino, quelle stupidaggini. L'opera letteraria in realtà parla già da sé per il semplice fatto di essere scritta appunto in una qualche lingua, ecco. Ma se ci fosse arrivata l'opera di Dante senza il commento di Benvenuto Rambaldi, il più autorevole fra i commenti antichi, non dico che sarebbe stato impossibile capirci qualcosa, ma sarebbe stato veramente, veramente arduo, perché senza i commentatori antichi e in particolare Benvenuto Rambaldi, riuscire a capire qualcosa di Dante sarebbe stato veramente problematico. Forse altri autori hanno magari meno bisogno di spiegazioni, sono più immediati, più limpidi. Già Petrarca è più scorrevole, più limpido, più chiaro, se vogliamo, di Dante. Ma vabbè, il problema storiografico praticamente. Il rapporto fra Medioevo e Rinascimento di norma si dice, si contrappone il Medioevo così religioso, oscurantista, termine orrendo, dogmatico, retrogrado, eccetera, eccetera. Retrogrado rispetto a che cosa? Beh, sono sempre giudizi anacronistici che vengono dati a posteriori, ma ecco, dall'altra parte invece il Rinascimento, lo dice la parola stessa, quindi no, la rinascita della razionalità dell'uomo, i valori terreni, la gioia di vivere, i piaceri del mondo, insomma, dell'aldiquà, ecco, no? Ma non è detto che ci sia questa contrapposizione così netta, perché anche nell'epoca cosiddetta medievale ci furono delle rinascenze, no? La rinascenza carolingia con Carlo Magno, una grande figura come quella di Alcuino, il grande prosatore latino, la rinascita proprio degli studi della conoscenza del latino, che era necessaria anche proprio al clero per poter esercitare, per poter capire anche le sacre scritture, era necessario ovviamente ai funzionari dell'impero, ma anche la cosiddetta scuola di Chartres nel XII secolo, la rinascita del platonismo, la riscoperta ovviamente attraverso traduzioni latine del grande pensiero platonico e neoplatonico, ma anche nell'epoca degli Ottoni, Ottone III, la Renovatio Imperii, Fulcherio di Chartres, maestro di Ottone III, appunto, l'idea di ripristinare culturalmente, politicamente lo splendore dell'impero romano. Quindi ci furono varie rinascenze cicliche, periodiche, no? Anche il concetto stesso di dolce stil novo, di vita nuova, l'idea di un rinnovamento spirituale. Questa idea di rinnovatio si trova anche nel Medioevo a più riprese. È chiaro che si afferma in modo definitivo e sistematico nel periodo noto appunto come Rinascimento. Ecco, Jacob Burckhardt, ecco, vedete, questo qua fa venire il nervoso, come dice Firenze 1990, ma la civiltà del Rinascimento in Italia non fu mica pubblicata per la prima volta nel 1990, è un'opera della seconda metà dell'Ottocento. Jacob Burckhardt, storico, e anche lo scritto di Burbach, no? Le date non sono queste, insomma, Burbach pubblicava negli anni 30-40 del Novecento, Jacob Burckhardt invece scrisse nella seconda metà dell'Ottocento, quindi vabbè, comunque. Ecco, Jacob Burckhardt, che era amico di Nietzsche, non a caso, insisteva sulla frattura fra Medioevo e Rinascimento, considerava il Rinascimento come una affermazione dell'individualità dell'uomo, no? Il primato dell'individuo rispetto al dogmatismo e alle istituzioni. Peraltro Burckhardt ravvisava già in Dante un'anticipazione dello spirito rinascimentale, quindi da quel punto c'è anche le categorie cronologiche proprio di Medioevo e Rinascimento vengono relativizzate. Ecco, Burckhardt invece sottolinea la continuità. I tre grandi iniziatori del romanesimo, dice Dante, Petrarca e Lienzo, cioè qui si intende Cola di Lienzo, no? Che avrete sicuramente studiato in storia, no? Il Tribuno, no? Che cercò di ripristinare, di restaurare, un'altra forma di rinascenza, anche se effimera, no? Cercò di ripristinare le antiche istituzioni romane. Dante, Petrarca e Lienzo erano tutti e tre in stretto rapporto con le idee riformatrici degli spirituali francescani. Il francescanesimo spirituale, contrapposto a quello conventuale, era un francescanesimo animato da una grande tensione profetica e che aspirava, no, ad un profondo rinnovamento della Chiesa Cattolica, una palingenesi della Chiesa Cattolica, un ritorno alla Chiesa delle origini, alla purezza del messaggio evangelico. E questo è un aspetto che anticipa il cosiddetto evangelismo umanistico. Sono concetti che si ritroveranno in Erasmo da Rotterdam, ad esempio, poiché questo è un dato di fatto importantissimo e certissimo, anche se in genere la scienza non è scienza, si intende la scienza storica, non ne ha avuto consapevolezza. Durante l'inizio dell'umanesimo, del Rinascimento, la profonda corrente diretta di una rinascita della civiltà umana finisce nello stesso letto di un'altra corrente, ancora più violenta, quella tendente ad una riforma della Chiesa. Anche la parola reformatio aveva allora lo stesso senso. Anche questa parola, la cui origine risaliva agli antichi misteri, i misteri dionisiaci o orfici, no, della tarda antichità, del che naturalmente nel Medioevo e nell'umanesimo sapevano qualcosa. Beh, forse l'umanesimo qualcosa ne sapeva, comunque. Designa la trasformazione riconducente allo stato originale, la rinascita. Questo richiamo della reformatio era risuonato abbastanza spesso nei secoli del Medioevo. La reformatio imperi, il rinnovamento e l'allevamento dell'impero all'originaria magnificenza erano stati tante volte promessi dai re tedeschi, nei loro decreti, riconnettendosi alla terminologia ufficiale del tardo impero, che avevano cercato di raggiungere nella loro discesa in Italia. Qui evidentemente si allude sia ad Ottone III, già citato, che a Ludovico il Bavaro, ma anche a Arrigo VII di Lussemburgo, ad esempio, che non portò a compimento la propria impresa, ma insomma, Dante sperava, come sapete, che appunto Arrigo VII ripristinasse l'autorità imperiale sull'Italia. Anche l'altro potere universale della Chiesa lavorava da lungo tempo in questo schema dei molti significati. Reformatio, cioè la trasformazione della Chiesa, è vigilita nella gerarchia, nel freddo dogmatismo, che deve essere riportata allo stato antico della Chiesa primitiva, ideale. Quindi, ecco. L'umanesimo e il Rinascimento apparvero come due vecchi imperi, quello dei Cesari e quello come quello dei Papi, ebbero esaurito la funzione avuta nel Medioevo, cioè ebbero terminato di essere i fattori politici effettualmente decisivi. L'umanesimo e il Rinascimento sono i relativi potenti morenti, hanno in comune con essi il pensiero dell'universalità. Accanto ai due imperi della Sione che lentamente scompaiono, essi arrivano un terzo nuovo impero di tipo non politico che governa nella sfera della fantasia, dell'eticità, dell'arte del vivere e determina l'intima natura dell'uomo. In effetti il Rinascimento dal punto di vista culturale non coincise con il Rinascimento, con un rinnovamento analogo sul piano politico e istituzionale. Anzi, il Rinascimento e il manualismo coincisero con un'epoca di decadenza politica dell'Italia, no? Grande fioritura culturale ma sostanziale decadenza politica e istituzionale. Dunque, ecco, qui avete concetti che abbiamo già trovato e di cui abbiamo già parlato. La filologia, la dignità dell'uomo, sono tutte cose che argomenti che avete studiato ancora meglio sicuramente in storia, forse in filosofia non ancora, vabbè, ne farete l'anno prossimo. Comunque, quindi vedete, insomma, in fin dei conti questa ansia del rinnovamento e di palingenesi che doveva coinvolgere l'intera società italiana affiorava a più riprese anche nel Medioevo, ma in modo ancora più netto, ancora più radicalmente umano, terreno, laico nel pensiero di Machiavelli. Quindi anche questa distinzione fra Medioevo e Rinascimento forse va un po' attenuata, perché accanto ad elementi di contrapposizione ve ne sono altri di innegabile continuità. Ecco. Accidenti, 2 ore, un bel polpettone per chi ascolta, insomma, a meno che non ci sia Massimo Cacciari che parla, quello uno lo sta a sentire anche per 10 ore di fila, ma insomma un veronese qualsiasi in effetti rompe solo il scatto. Beh, il vantaggio di queste audio lezioni così indifferita è che la potete anche interrompere, potete ricominciare, potete ascoltarle con un orecchio mentre fate altre cose, oddio. Vabbè, comunque, questo è quanto. Insomma, a questo punto basta. Ci rivediamo a settembre, non ho ben capito in che forma, classe spezzata. Beh, meglio, dico, perché se sono solo in 10 fa meno casino, se sono in 20 ne fanno di più, se sono in 30 diventa un manicomio, e quindi a questo punto ben venga la classe spezzata, anzi forse è meglio mantenerla anche in assenza di pandemia. Quindi buona estate e a risentirci prossimamente.